Progress, quando la tecnologia diventa per tutti. Questa sera rispondiamo alla mail di Federico, che chiede quando arriveranno le prime auto in grado di guidare da sole. Intanto vi ricordo che anche voi potete scriverci a progress@radio24.it e farci sapere quale sia l'innovazione che vi ha cambiato la vita oppure la tecnologia che vorreste diventasse realtà. Ma a che punto è la ricerca dell'automobile con il pilota automatico? Lo chiediamo a Sergio Savaresi, che è docente di controlli automatici del Politecnico di Milano. Buonasera. Sì, allora, le tecnologie auto con pilota completamente automatico sono in fase di studio. Esistono già, che circolano, numerosi prototipi che effettivamente riescono a viaggiare in modo completamente automatico sia in ambito urbano, che è la cosa più difficile, sia in ambiti extraurbani. Il vero problema è quello di sicurezza, perché possono comunque presentarsi delle situazioni impreviste e, diciamo, la reazione del veicolo completamente automatico a fronte di queste situazioni è ad oggi imprevedibile. Forse più interessanti sono tecnologie di veicoli semi-automatici, in cui il guidatore deve semplicemente dare una sorta di incipit o richiesta di manovra, quindi diciamo un po' una via di mezzo. Il guidatore deve stare attento, deve chiedere delle manovre, ma non è costretto a eseguire in dettaglio l'intera manovra. Progress vi aspetta domani alle 18:30 su Radio 24, in collaborazione con Ford.